Ciao a tutti, carissimi ascoltatori di Radio Big World, e benvenuti in questa nuova stagione dei Monologhi Esteriori. Se non avete seguito la prima stagione e non sapete chi sono, nessun problema, mi presento subito. Mi chiamo Elisa Elena Carollo e sono un'aspirante attrice. Mi sto barcamenando un po' tra corsi di teatro, doppiaggio, ma non è questo il luogo in cui parlarne. Se siete interessati al mio percorso di aspirante attrice o attrice in divenire, ve lo racconto sul mio blog www.dramaqueen.it. Se volete altre informazioni su quello che faccio, andate lì. Questo programma radio invece non parlerà di me. O meglio, ci metterò un po' delle mie esperienze personali, ma non troppo. Parleremo un po' di monologhi, un po' di storia del teatro, ma soprattutto di come il teatro, anche quello dei tempi più antichi e lontani da noi, in realtà non è così distante dalle nostre vite quotidiane. Non ci credete? Provate ad ascoltare questa puntata e poi vediamo se riuscirò a farvi ricredere un pochino. Per partire bene con questa nuova stagione, volevo cercare un monologo che parlasse di nuove partenze, di motivazione, di ottimismo, e l'ho cercato in tutte le commedie, ma non trovavo niente che mi convincesse. Quindi dove sono andata a trovarlo? In una tragedia. Ok, sembra un po' un controsenso, però tante volte le tragedie partono da una situazione felice e poi diventano tragiche. Questo è il caso delle tre sorelle di Chekhov, il dramma appunto da cui ho tratto il monologo di oggi. Non vi racconto tutta la storia di queste tre sorelle, vi invito a leggervi l'opera se volete sapere come continua. Però la situazione iniziale è questa. Ci sono appunto queste tre sorelle, Irina, Masha e Olga, che vogliono trasferirsi a Mosca dalla provincia per sfuggire dalla monotonia e dare una svolta alle loro vite. Sono logicamente entusiaste di questo trasferimento, soprattutto Irina, che vede nel lavoro l'opportunità di diventare indipendente ed emanciparsi. Quindi questo monologo parla di una cosa che io ho cercato molto in quest'ultimo periodo, la voglia di lavorare. Perché quando si ha è una cosa bellissima, però quando non si ha la voglia di lavorare e bisogna lavorare lo stesso, è dura cercarla. Quindi ecco, voglio partire in questa nuova stagione del programma con un monologo sulla voglia di fare, con la speranza che mi sia da motivazione e che mi sia un po' da sprone quando non avrò voglia di fare e starò per farmi prendere dalla pigrizia. Quindi ascoltiamo le parole di Irina, tratte da Tre sorelle di Anton Chekhov. Ditemi, perché oggi sono così felice? È come se stessi in barca, con un gran cielo azzurro sopra di me e grandi uccelli bianchi in volo. Perché? Me lo dite? Oggi, quando mi sono svegliata, alzata e lavata, all'improvviso mi è parso di vedere tutto chiaro e di sapere come bisogna vivere. Caro Ivan Romanier, io so tutto. L'uomo deve faticare, lavorare fino a far sudare la fronte, chiunque egli sia. E solo in questo stanno il senso e la ragione della sua vita, la sua felicità, le sue gioie. Com'è bello essere un operaio che si alza al far del giorno e spacca le pietre sulla strada. O un pastore, o un maestro che insegna ai bambini, o un macchinista delle strade ferrate. Mio Dio, se no perché essere uomini? Meglio essere un bue, un semplice cavallo, che una di quelle donnette che si alzano a mezzogiorno, prendono il caffè a letto, poi stanno 2 ore a vestirsi. Ah, quanto è terribile tutto ciò! tanta è la voglia di bere quando fa caldo in estate, quanta è quella che ho io di lavorare. E se non mi alzerò sempre presto e non lavorerò, non riconoscetemi più come amica. Questo monologo è proprio la quintessenza della voglia di fare. Avete presente quelle mattine in cui vi svegliate pieni di energia che avete voglia di spaccare il mondo? Ecco, a me non è che capitino tanto spesso. Preferirei che mi capitassero più di frequente, ma insomma, cerco di mettermi un po' in questo mood della voglia di fare, anche se la voglia sarebbe solo quella di restare a letto sotto le coperte. Anzi, Irina in questo monologo è addirittura un pochetto esagerata. A un certo punto mi è venuto da pensare, ma ragazza mia, di che ti sei fatta? Cioè, se ti sentisse un operaio che spacca le pietre e dire queste cose, probabilmente non sarebbe molto d'accordo, anzi, ti direbbe, vuoi provare tu il mio lavoro? Per fortuna il mio lavoro non è spaccare le pietre. Però a volte anch'io torno a casa la sera che sono veramente esaurita. Non tanto fisicamente perché non faccio un lavoro fisico, però mentalmente sono veramente fusa. E qui la si può vedere in due modi. Come la si vede di solito, cioè sono stanchissima, voglio solo buttarmi sul divano e non pensare più al lavoro fino a domani. Oppure un po' più come la vede Irina, cioè essere contenti per quello che si è fatto al lavoro, perché in realtà se ci pensiamo bene, dà anche soddisfazione il pensiero di essere riusciti a combinare qualcosa e di aver portato a casa la pagnotta, perché non so voi, ma io ho l'affitto e delle bollette da pagare. Non dico che dobbiamo farci della stessa sostanza strana di cui si è fatta Irina quando ha fatto questo discorso, però forse potremmo prendere un pochino esempio da lei, e io per prima lo dico, perché a volte il demone della pigrizia si impossessa di me in un modo che non avete nemmeno idea. Certe mattine vorrei veramente restare lì a letto sotto le coperte e non muovermi mai più. Però effettivamente, se ci penso, passare una vita sotto le coperte a non far niente non sarebbe molto produttivo. Che contributo potrei dare al mondo, alla società, agli altri? In effetti, se voglio combinare qualcosa, fare qualcosa di buono per il mondo, o semplicemente qualcosa di significativo che dia un senso alle mie giornate, devo muovere il culo e alzarmi. Quindi mi ritrovo a dover dire grazie, Irina, per avermi fatto pensare a questo punto di vista che non avevo considerato prima sul lavoro, e che non è soltanto il mio solito devo alzarmi per andare a lavorare. Ovviamente quello di cui vi ho parlato non è il significato di tutto il dramma Tre sorelle di Chekhov. Ho solo preso questo monologo e l'ho un pochettino estrapolato dal contesto, non stravolgendolo, però ho considerato soltanto quello come se non facesse parte di un insieme più grande, di un personaggio più grande che poi ha un'evoluzione, perché non avevo il tempo di parlarvene in questa breve trasmissione. È un po' quello che farò anche con gli altri monologhi, per ragioni di tempo e anche perché la mia cultura teatrale purtroppo non è ancora così vasta. Però mi interessava mostrarvi un pochettino, con un singolo monologo, quello che fa un attore quando ci si trova davanti. Deve cercare di trovare un punto di incontro con il personaggio, anche se è una ragazza vissuta nell'Ottocento, come in questo caso. Prende le sue parole e cerca di trarne qualcosa che si avvicina alla sua vita, alla sua esperienza personale. Così io adesso ho trovato un aggancio con quello che dice Irina, anche se vivo nel 2017 e lei è una ragazza dell'Ottocento. Posso immedesimarmi nella sua situazione, con le dovute differenze, perché ho trovato un aggancio in quello che lei prova. Il mio scopo è un po' di spiegare questi processi che avvengono nella mente dell'attore quando ci si prepara a recitare un personaggio e che forse gli spettatori non sempre colgono. Spero che vi sia sembrato interessante e che vogliate seguirmi anche nella prossima puntata dei Monologhi Esteriori. Se volete, vi aspetto sempre qui, su Radio Big World.